Radio 24 Reportage. Ebola. L'Italia è pronta? Di Cristina Carpinelli. Il super monitorato virus Ebola si muove sotto gli occhi di un Occidente pronto ma spaventato. È il virus dei poveri che ha falcidiato migliaia di vite tra Liberia, Guinea e Sierra Leone. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già contagiato più di 9.000 persone con più di 4.000 morti. Il tasso di mortalità sfiora il 70%. Da anni, dal 76, l'Africa ha assistito a ondate di Ebola. Quella attuale però ha raggiunto anche Stati Uniti ed Europa. Ebola è un virus per il quale non esiste un vaccino e se mai esisterà sarà sperimentato solo perché è arrivato nella pancia dell'Occidente, come ci confermano quasi tutti gli esperti sentiti, come ci conferma il professor Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. Terapia specifica per il virus non esiste, cioè non ne conosciamo ancora. Ci sono stati alcuni tentativi, questo Zimap o altre, il siero preso dall'ammalato, l'altro paziente, ma sono tutte sperimentazioni così diciamo aneddotiche, nel senso che uno studio su che cosa funziona o funzioni non è stato fatto e non è possibile farlo. Anche quelli che sono guariti negli Stati Uniti, bisogna capire se sono guariti, perché sarebbero comunque guariti perché stanno in quel 30-40% che comunque guarisce di suo, oppure perché ha funzionato il farmaco. Il problema è che probabilmente qui da noi un pochino di più la possibilità di sopravvivere c'è, perché vengono utilizzate tutte le terapie di supporto, l'infusione di liquidi, eventualmente il plasma, la possibilità di fare gli esami. In quei paesi il sistema è completamente caduto, già era un sistema estremamente, estremamente fragile, pochi medici, poco personale, ci sono stati degli ammutinamenti anche da parte del personale per la paura. Se lei vede le figure che fa vedere il CDC, vede che tutti i rifiuti relativi a pazienti ricoverati con Ebola sono ammassati fuori dall'ospedale, nessuno li tocca, anche lo smaltimento diventa difficile, quindi aumenta il rischio. Ed è chiaro che non hanno la possibilità di supportare nella fase acuta al malato, e quindi la mortalità aumenta. Di fatto questa, non so, io ho definita la malattia dei paesi poveri che terrorizza i paesi ricchi, perché fa impressione, però di fatto è la malattia dei paesi poveri. Ho paura che una volta finita, se finisce questa epidemia, fino alla prossima si dimentichi. E anche la ricerca di farmaci, qualcosa che funzioni, si ferma, insomma, anche perché le aziende private multinazionali non hanno nessun interesse a mettersi a lavorare su questo tipo di malattia. È solo il pubblico che può farlo, che anche nei posti migliori ha pochi fondi, e se poi vediamo una malattia che non colpisce tantissime persone, che non è facile fare le sperimentazioni, non colpisce tante persone in termini assoluti, insomma, cioè l'AIDS, la tubercolosi hanno numeri nettamente più alti, quindi è anche difficile mettersi a lavorare su una cosa del genere. Qualcosa che funziona sull'animale in laboratorio è stato visto, c'è. Bisogna capire come poi può essere trasportato in vivo, insomma. Dunque, una malattia nata già con il segno di un razzismo economico prima, più brutale poi, perché da quando si segnalano casi sospetti in Europa, e qualche timore c'è stato anche in Italia, le persone hanno cominciato a ripetere queste frasi. Tutti i neri li manderei via da Milano, dall'Italia. Perché pensa che siano loro la causa? Eh sì, l'ho sempre pensato. Io non penso che ci sono questi stranieri che prima o poi ci pescheranno pure a noi qua. Per capire quanto siamo pronti a una possibile emergenza, siamo andati dunque all'Ospedale Sacco di Milano, uno dei due poli predisposti ad accogliere malati di Ebola. L'altro polo si trova a Roma, all'Ospedale Spallanzani. Due centri d'eccellenza che, anche quando l'allerta è basso, continuano a fare ricerca e formazione, come ci racconta la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore del laboratorio di virologia e bioemergenze del Sacco. Il virus, in effetti, rispetto agli altri virus di cui ci siamo interessati nell'ultimo trentennio, come per esempio il virus dell'AIDS, dell'HIV, il virus dell'epatite C e B, è certamente molto meno conosciuto e molto meno studiato, ma non perché non ci sia interesse da parte dei ricercatori, ma proprio perché è un virus che è apparso molto poco sulla scena infettivologica, abbiamo avuto solo alcuni focolai molto limitati ed è la prima volta che ha un'espansione di questo genere. È un virus ad RNA, per i tecnici questo vuol dire molto, cioè un virus che ha un'alta capacità di mutare. Le mutazioni in un virus possono agire in due sensi, o nel senso autodistruttivo, autolimitante, nel senso che passando da paziente a paziente potrebbe perdere, e noi ce lo auguriamo, la capacità di infettare e di uccidere, e o dall'altro lato creare nuove vie di contagio e creare anche nuovi meccanismi patogenetici per aggredire l'uomo. Le chiedo, appunto, nel caso si verificassero dei casi di Ebola, se è vero, appunto, che voi siete pronti ad intervenire. Noi siamo pronti per nostra missione da sempre, nel senso che noi comunque anche nei periodi cosiddetti di pace, un po' come si fa in ambiente militare, facciamo le esercitazioni perché potremmo essere poi sul campo, quindi periodicamente sempre, anche quando la gente non pensa a possibili epidemie, noi continuiamo i corsi di formazione, come ci si veste, come ci si sveste, come si fa a manipolare un campione ad alto contenimento infettivologico, si danno degli allarmi improvvisi per simulare l'emergenza, quindi questo è un nostro lavoro rutinario che ci fa diciamo più sereni, ci rende più sereni quando poi l'emergenza avviene. Siamo pronti per dovere, per istituzione e direi anche come una parte quasi di volontariato professionale, perché questa professione si fa sentendola, nessuno ci obbliga ad essere in prima fila come lo siamo. E il mio staff, lo staff delle malattie infettive, è molto motivato, non guardiamo a orari e a turni, perché sentiamo la problematica e sentiamo come la gente si stia preoccupando e vogliamo dare la massima assicurazione. Ci siamo perché se dovesse arrivare, oltre che al campione, il paziente positivo, le malattie infettive sono pronte ad ospitarlo nelle camere di alto isolamento. Per darvi un'idea, in questi laboratori si studia, oltre ad Ebola, anche SARS e altri virus dei quali ci siamo in qualche modo già dimenticati. Al Sacco poi c'è un intero reparto ad alto isolamento, con docce di decontaminazione in ingresso ed uscita, 50 infermieri e 35 medici specializzati pronti per l'arrivo di un malato. L'ingresso alla zona dedicata ad Ebola è nell'ala destra del pronto soccorso. È proprio qui che sono state allestite le stanze per la diagnosi. Un sospetto contagio viene immediatamente separato dagli altri. Le stanze ad alto isolamento poi sono 8, sempre al piano terra, e hanno un riciclo d'aria speciale. Ci sono all'interno telecamere ovunque per monitorare ogni cosa avvenga. Le docce decontaminanti disinfettano qualsiasi cosa entri o esca. Insomma, il sistema è rodato e le competenze sono alte. Sentiamo il professor Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento Malattie Infettive del Sacco. Allora, l'ospedale Sacco insieme alla Spallanzani di Roma è uno dei due presidi sul territorio nazionale che è abilitato al ricovero delle patologie ad alta infettività tipo Ebola, Marburg, perché ci sono delle stanze cosiddette ad alto isolamento e un laboratorio adeguato a gestire i campioni infetti con livelli di sicurezza 4, che sono sicuramente quelli più alti che esistono. Beh, questo è un virus che è stato identificato nel 76, negli anni si sono comparse una serie di epidemie qua e là nell'Africa, il virus arriva, infetta un certo numero di persone, normalmente 300-400 persone, 60-70% di solito moriva. Questa era l'epidemia visibile, poi nei villaggi, essendo zone rurali, non si sa bene cosa possa succedere, e poi scompare per un certo tempo, salvo ricomparire da un'altra parte. Questa è un'epidemia un pochino diversa, nel senso che diciamo così, non si è autolimitata e ci sono stati poche centinaia di casi, ce ne sono migliaia, perché ha sfruttato la fragilità del sistema in questi paesi, che sono tra i più poveri dell'Africa occidentale. Quello che noi dobbiamo fare è essere pronti, tenere l'allerta nel caso possibile, ma secondo me è improbabile che arrivi qualche caso così, diciamo così, in maniera sporadica, che non arrivi direttamente con la diagnosi già fatta, e tenere allenato, tra virgolette, tutto il personale a utilizzare questi presidi, perché è l'unica possibilità di essere sicuri che poi l'operatore sanitario non si infetti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.